Come stai? Io bene, tu come stai? Anch'io bene, direi che si inizia, dunque. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Paese sono tante piccole realtà, in ogni città mille identità, figli di nessuno, siamo figli di nessuno, siamo figli di nessuno. No, sinceramente non sono dispiaciuto, le critiche fanno parte del gioco, sappiamo benissimo poi che la nazionale comunque a prescindere è soggetta, essendo figlia di nessuno, a delle critiche. Noi dobbiamo stare zitti, dobbiamo lavorare, sperando, ecco, con il lavoro di dare delle soddisfazioni. Siamo figli di nessuno, dovrai abbatterci uno ad uno, già. Dei picchi, ecco, di grandissimo entusiasmo e dei picchi quasi di disinteresse, non dico totale, però abbondante. Questo credo che alla fine di tutto rispecchi anche un po' l'umore, ecco, della società e il momento in cui si vive nella società italiana, no? Questo secondo me è molto... 15 anni fa un'Italia-Malta in egual modo facevi uno stadio esaurito, adesso ti devi accontentare delle 10, 12, 15 mila presenze. Siamo figli di nessuno. Sì, pensiamo a noi e cerchiamo di rimanere concentrati. Nessuno 24 padiglione Cibus e Italia, siamo dentro Expo, chi vuole può venirci a trovare, ci sono regali, ci potete anche raccontare la vostra, anche il vostro pronostico se volete su Italia-Bulgaria. Avete sentito la vigilia un po' nervosa di Antonio Conte, io non so se davvero l'Italia sia figlia di nessuno. Credo che le critiche siano assolutamente giustificate per lo spettacolo misero che ci ha fatto vedere a Firenze contro Malta e, se vogliamo, anche per una certa tendenza a giocare sempre peggio dopo un inizio un anno fa interessante e promettente. 800 24 00 24, aspetto le vostre chiamate per intervenire. Ciao Giovanni. Ciao Carlo. Ciao. Ciao Carlo. Ciao. Io non so perché Conte sia arrabbiato delle critiche, cosa che no, tra l'altro sono nemmeno io, sempre a tutti i cittadini italiani. Quello che dico io è che la mano di Conte non si vede. Lui aveva promesso, quando era arrivato, magliette sudate, tanta corsa, tanta foga e tutte queste cose. A me sembra una nazionale identica a quella che abbiamo visto nel passato e molto modesta. Sì, che si sta rassegnando un po' alla mediocrità. Saluto Enrico Curro di Repubblica. Ciao Enrico. Ciao Enrico. Enrico? Eccomi. Abbiamo pronto. Un problema di... Eccoci, l'abbiamo riagganciato. Stavamo parlando, tra l'altro, credo, titolo anche di Repubblica di un paio di giorni fa, rassegnati alla mediocrità. Cioè, è un po' questo il virus che sta colpendo la nazionale italiana, la nazionale di Conte, che era partita con così tante promesse e speranze. Ma io credo che sia il virus che colpisce non la nazionale di Conte, ma la nazionale in generale, il calcio italiano in generale. La mediocrità tecnica del calcio italiano è un dato di fatto ormai acclarato. Se è vero che l'unico talento nuovo, a parte Verratti, sbocciato negli ultimi anni a livello internazionale è Darmian, che infatti è finito al Manchester United perché nessuna squadra italiana è stata in grado o ha voluto investire su un giocatore che è oggettivamente molto forte. Per il resto siamo a un livello bassino rispetto alla tradizione di un calcio che ha avuto alti e bassi, ma a un livello così basso secondo me non era mai sceso. Sì, un calcio che era abituato, Carlo, anche a produrre talenti, almeno uno al decennio, un io campione di quelli che lascia il segno. Io dico che l'attacco Pelé ed Er è un attacco da metà classifica della nazionale del campionato italiano. Quindi, sì, arriverebbe a fatica probabilmente in Europa League. Sì, tra l'altro non so, così facciamo così, cronaca. È così. Non so, facciamo cronaca, Carlo. Chiediamo a Enrico, perché leggevo nella rifinitura di questa mattina, in realtà con Candreva e Pellè potrebbe esserci El Shaarawy, cioè fino a prova contraria una riserva del Monaco. Certo. Enrico. Certo, una riserva del Monaco. Sì, è così, è Enrico? Anche vero, sì, penso di sì, ma è anche vero che El Shaarawy ha avuto una partenza così e così legata soprattutto a problemi, a quanto so io, di riadattamento e riequilibrio atletico. Stanno lavorando su questo al Monaco. Onestamente il Shaarawy, con tutti i limiti che può avere mostrato magari da un punto di vista caratteriale, però dal punto di vista tecnico è uno dei pochi talenti che siano davvero si siano scoperti negli ultimi anni, e Conte si è probabilmente ricordato, e secondo me ha fatto bene, delle ultime partite della nazionale prima dell'estate nelle quali El Shaarawy non ha giocato male. Scusa Enrico, però allora possiamo lanciare una provocazione: gli attaccanti più forti dal punto di vista del talento in Italia sono Balotelli, destro, Osvaldo lo dimentichiamo, Giuseppe Rossi è rotto da tempo. Questi tre sono i più forti, ok? O se no richiamiamo i vecchi, richiamiamo Toni, richiamiamo Totti, richiamiamo questa gente qui. Sì, questo può essere vero, ma secondo me stiamo parlando di aspetti tutto sommato collaterali di un problema di fondo che è più importante, nel senso che se noi avessimo in questo momento Cristiano Ronaldo o il Totti giovane, appunto, quindi stiamo discutendo comunque di soluzioni, Balotelli o i vecchi che hai citato tu, che secondo me sposterebbero di poco il problema. Il problema è un problema di fondo, che è quello che dicevo all'inizio, e cioè che i talenti non ci sono più. Quindi alla fine che tu chiami uno un po' più bravo o leggermente meno cambia poco, cambia veramente niente. Se è vero che la differenza con Malta, e stiamo parlando di Malta, l'hanno fatta nel secondo tempo Candreva, che è l'unico giocatore italiano in questo momento provvisto di dribbling e capace di andare sul fondo, e Darmian, che dopo un primo tempo... Sì, ma tu hai visto il valore aggiunto di Conte? Non ho capito. Hai visto il valore aggiunto di Conte in questa nazionale? Ma io credo di non averlo visto, ma credo anche che onestamente, con tutte le critiche che si possono muovere a Conte, e noi ne abbiamo mosse, non sia questo neanche il problema. Credo che nessun allenatore, neanche Ancelotti, neanche Mourinho, neanche i migliori al mondo in questo momento potrebbe fare granché con questo materiale. E potrebbe Conte rivitalizzare questa nazionale? Secondo me no, è impossibile. Che è una nazionale spenta. Abbiamo ancora meno di un minuto prima del traffico. Io invito anche da casa, 800 24 00 24, se davvero pensate che questa sia la nazionale più scarsa degli ultimi 50 anni a livello di talento e di qualità, oppure se la pensate diversamente. Noi siamo qui un minuto per chiedere la prima cosa su Pirlo, che oggi dovrebbe partire dalla panchina, gioca De Rossi, o almeno questo è quello che pare di intuire in queste ore della vigilia. Se si tratta di un campanello d'allarme anche per Conte, questo imborghesimento di Pirlo, che è tornato, non ha più ritmo, non ha più gambe, forse anche tanti anni, Gio. Non ha più l'età per essere una colonna della nazionale. Enrico? A 36 anni secondo me è fisiologico che non abbia più il ritmo. Dopodiché attenzione a dare per morto Pirlo, perché potrebbe anche essere che, giocando invece, faccio il discorso inverso, in un campionato in cui non ci sono i ritmi e le pressioni come quel del calcio italiano, come quello americano, magari invece si possa preservare per la nazionale. Non dimentichiamo che siamo anche a settembre, quindi molti giudizi da questo punto di vista fanno in tempo a cambiare. E comunque, se gioca Pirlo o se ha giocato Pirlo, evidentemente perché nel frattempo non c'è stato nessuno in grado di sostituirlo. L'anno scorso si parlava di Valdifiori, che è nel frattempo un po' disperso, Verratti gioca in un altro ruolo, e se non gioca Pirlo gioca De Rossi, cioè siamo ai veterani del 2006. E infatti la seconda valutazione era quella su Verratti, che questa sera dovrebbe giocare, ma non nella posizione di regista. Pare che le idee di Conte a proposito di Verratti siano abbastanza chiare, e a questo punto anche espresse negli atti, nei comportamenti, e non solo nelle parole, quelle che abbiamo letto in questi mesi. Cioè Verratti non sarà mai l'erede di Pirlo, almeno in nazionale. No, però Verratti nel Paris Saint-Germain gioca egregiamente in una posizione che non è propriamente quella di regista, forse è un regista un po' defilato, ha altre caratteristiche, e comunque i giocatori di livello internazionale in questo momento sono pochi, e uno di questi è Verratti. Ricordo che al Mondiale Verratti è stato uno dei pochi a salvarsi, quindi ha anche la personalità necessaria per giocare nelle partite importanti. Non vedo assolutamente perché Verratti dovrebbe star fuori da questa nazionale così povera. No, non possiamo permettercelo. Grazie Enrico. Ciao Ari. Ciao. Ciao. Grazie Enrico Currò di Repubblica. 800 24 00 24. Poi il paradosso è che pur in questo clima di poco talento, noi questa sera ci giochiamo un match point o quasi, che ci può portare all'Europeo del 2016. Ci fermiamo, c'è il traffico, poi c'è la pagina sul Gran Premio di Monza. Attenzione, perché stiamo aspettando la notizia sulla possibile penalizzazione di Hamilton, che potrebbe regalare magari la vittoria a Vettel. Traffico. Siamo andati in vantaggio anche meritatamente, perché era inevitabile che, come una spugna, si pone l'acqua. Hai visto come ha insultato Antonio Conte? Poi però finisci questa metafora: come una spugna si pone l'acqua, e che succede? Che alla fine la spugna perde anche acqua, e così è successo alla difesa del Manta. Grande trap. Tutti convocati. Tutti convocati. Lewis Hamilton. In their honor, the British and German national anthems. Fischi per Hamilton. Vai così. Sebastian Vettel, the trophy is presented. Alzate il volume. Undersecretary of State of the Ministry of Justice. Well done to mai visto quasi un Vettel così. Più bello che te puoi avere, speriamo che anche questo non avvenga. Questo grazie a voi, grazie tifosi, quest'anno è incredibile, grazie a tutti, la squadra dice grazie. Riassunto sonoro del podio di Monza, che al momento recita Hamilton, Vettel, Massa con Bottas quarto, e Raikkonen quinto. Al momento, perché subito, poi c'è una questione di atmosfere, di pressioni, di gomme. Allora, andiamo prima a fare cronaca. Dario Ricci, nostro inviato all'autodromo di Monza. Intanto salutiamo le persone che ci vengono a trovare qui a Cibus Italia Expo. Dario! Eccoci da Monza. Salve ragazzi, buona domenica. Beh, allora sì, trionfo di Lewis Hamilton, che ha dominato dall'inizio alla fine, poi Vettel, Massa, Bottas e Raikkonen, questi i primi cinque, sub iudice come dicevamo, perché è sotto investigazione Lewis Hamilton, perché la pressione delle gomme della sua Mercedes è risultata prima della partenza leggermente inferiore di 3 PSI, che è l'unità di misura di tale pressione, rispetto al minimo consentito. Quindi dominio in pista, ma siamo ancora in attesa che la giuria ratifichi quello che si è visto in una gara per molti aspetti noiosa, dove i fatti sono avvenuti all'inizio col flop di Raikkonen in partenza. Raikkonen, lo ricordavamo, partito secondo, ma di fatto non partito, perché non è riuscito a ingranare la prima. Adesso bisognerà capire anche in questo caso cosa è accaduto veramente, ma di fatto il finlandese sta subito risucchiato nelle retrovie, alle spalle di Hamilton ha provato l'inseguimento Vettel, che poi però è arrivato a mettere in discussione la superiorità dell'inglese. Al terzo posto, fino a 2 giri dalla fine, Rosberg, fin quando il motore della sua Mercedes non ha ceduto, è andato a fuoco di fatto, e quindi a quel punto terzo posto di Massa e Hamilton, che porta 53 i punti di vantaggio su Rosberg, se l'ordine d'arrivo verrà ratificato. Giuria permettendo. Allora, saluto, abbiamo convocato perché sono due dei massimi esperti che ci aiuteranno in questi minuti a provare a decodificare il pomeriggio di Monza, Giorgio Terruzzi e Pino Allievi. Buon pomeriggio a tutti e due. Buon pomeriggio anche a Terruzzi. Allora, chi comincia a spiegarci che cosa rischia Hamilton se siamo davanti? Perché poi il sospetto dei tifosi viene, Carlo, è inutile che stiamo qui a nasconderlo, vogliono tenere aperto il mondiale, altrimenti sarebbe finito, Hamilton squalificato farebbe comodo. Finito, dai. A Monza il tamarro più veloce del mondo l'ha già vinto. Sì, non c'è dubbio, anche la macchina più veloce del mondo. Giorgio Terruzzi, possiamo mettere nel cassetto i sospetti, le dietrologie, cosa succede? Ma sai, qui intanto non c'è una consuetudine a far riferimento a un regolamento vero e proprio, ogni volta ci sono decisioni che lasciano discutere, che spiazzano. Quindi in questo momento francamente non si sa, anche perché non c'è una storia pregressa su questo fronte qui, non si capisce. Si capiscono altre cose invece che sono un po' sconcertanti. Primo, tu sei la Federazione Internazionale, misuri a 5 minuti dalla partenza due macchine che risultano fuori regola. Le fai partire, li fai fare tutta la gara per poi dire che correvano con gomme sotto il minimo di pressione, quindi insicure. Ma Cristo, fermale subito, no? Dillo, sei circondato dai meccanici, fermale. È già successo, la procedura può essere rinviata, non si capisce questo rapporto con la sicurezza che va e viene. Vabbè. Quindi può succedere che diano una penalità in termini di tempo che non cambia la classifica, essendo 25 i secondi di vantaggio di Hamilton sul traguardo. 25,42 millesimi. Può essere che dia una penalità più severa, non lo so, può essere che dicano fate i bravi la prossima volta, non lo sappiamo, francamente, io non riesco a capire. Pino, tu cosa ti aspetti? Pino Lievi. No, io non mi aspetto niente, perché è talmente imprevedibile quello che decide la federazione che posso aspettarmi di tutto, cioè dalla condanna a morte di Hamilton prima che torni in Inghilterra a un buffetto sulla guancia. Ma la cosa sconcertante, come dice Giorgio Terruzzi, è che appunto o li escludi dalla griglia oppure gli fai aumentare la pressione, cosa che poteva fare in pochi secondi, no? Non li fai correre irregolarmente se li giudichi irregolari, perché metti a repentaglio la vita di chi corre regolarmente. Non ha nessun senso quello che è accaduto. Oltretutto è vero che dopo gli incidenti delle gomme scoppiate nell'ultimo Gran Premio del Belgio la FIA si era messa d'accordo con la Pirelli per fare in modo che la Pirelli imponesse una pressione minima delle gomme alla partenza, ma è altrettanto vero che non c'è stato un regolamento esecutivo che dicesse anche come sarebbero state punite eventuali infrazioni. Quindi a questo punto su che base? Non c'è nessuna certezza di giudizio su quanto verrà deciso adesso, cioè puoi decidere di cosa, Carlo, che spesso capita, no, nel mondo della Formula 1, nel sì, circus. Sì, capita anche nella vita comune. Gli imbrogli capitano anche nella vita comune, bisognerebbe in questo caso evitarli. Fare delle regole certe. Qual è la regola? Ma le regole certe non esistono neanche nella vita comune, eh? No, lo so, ma quantomeno stabilire delle sanzioni, poi se tu hai voglia di applicarle le applichi, se non hai voglia non le applichi. Ma vado più là, ti rendi conto che non puoi bloccare la procedura di partenza per un minuto? Perfetto, allora il primo pit stop, avendo avuto tu la certezza che questi erano fuori dalle regole in partenza, il primo pit stop dai 10 secondi, dico a caso, di penalità prima a Hamilton e poi a Rosberg, no? Ma almeno arrivi a qualcosa, tu non puoi a quattro giri dalla fine, quanto diavolo ne mancavano, dire state attenti perché rischiate molto. No, non è giusto. Non è giusto. Sì, poi viene il sospetto che la Mercedes abbia fatto spingere. Viene il sospetto che la Mercedes abbia fatto spingere Hamilton fino alla fine, prevedendo una possibile penalizzazione, provando a lavorare sui millesimi per eventualmente mantenere il primo posto. Chiedo velocemente a Dario Ricci se esiste una tempistica, cioè quando è che ne veniamo a capo? Tardi. Noi siamo in onda fino alle 17, tardi, 19, tardi. Scusa. Questo è veramente difficile da dire, come il resto, perché siamo qua in attesa di una fotocopia o di un tweet o di un buon uomo che ci dia questo esito. Intanto scenario surreale, perché il paddock fa armi e bagagli e se ne va. Direi che l'unica cosa positiva è che almeno il traffico dovrebbe un po' scemare, dovrebbe essere un po' più facile tornare a Milano, ma prima era stato detto che alle 16.15 avremmo avuto il verdetto su questa decisione. Direi che siamo abbondantemente oltre, ragazzi. Sì, decisamente, ma noi aspettiamo, siamo in onda fino alle 19 e poi andiamo avanti anche fino a mezzanotte in attesa di capire chi ha vinto il Gran Premio di Monza. Scrive un amico al 349-238-6666, la Formula 1 è lo sport più brutto del mondo, chi ha problemi ad addormentarsi basta che si veda una bella corsa ed è impossibile restare svegli per più di 10 minuti. E invece non è vero, perché il Gran Premio dura un'ora e 40 minuti circa e noi dopo due ore siamo qui che ancora non abbiamo capito chi ha vinto. Ditemi voi se esiste uno sport più più imprevedibile di questo. L'altro tema invece, Carlo, che poniamo ai nostri due interlocutori è: chi ha sbagliato nella partenza di Raikkonen? Ha sbagliato il finlandese e Marchionne era abbastanza arrabbiato alla fine della gara, o ha sbagliato qualcosa, insomma qualcosa non è andato bene nella macchina? Chi comincia? Giorgio o Carlo? Giorgio, prima professore. Massimi esperti. Abbastanza certe sul fatto che ha sbagliato il pilota, ha sbagliato la procedura, ha mollato la frizione, è andato in stallo e ciao. Spiace dirlo, però succede, spiace anche che Raikkonen non lo dica, dico ho sbagliato, invece che di dire era tutto a posto, non si capisce cosa sia successo. Però insomma, evidentemente c'è stato un errore del pilota, succede, pazienza, devo dire che in GP2 succede molto più spesso, sono cose che insomma, se tu parti in prima fila per la prima volta davanti al tuo compagno battuto, perché è già successo, ma quando in Canada Vettel è stato penalizzato, ma per la prima volta parti davanti al tuo compagno, sei in prima fila a Monza, insomma. Sì, dovevi cercare di evitarlo. No, è Pino, il minimo. Pino Allievi, ha sbagliato Raikkonen? Sì, ha già spiegato tutto Giorgio, cioè non, tutto evidente. Cioè è uno che non riesce a fare un weekend senza un errore. Tante volte lo fa in qualifica, tante volte lo fa in gara, tante volte alla partenza della gara, tante volte lo fa alla fine della gara. È uno che non riesce a mettere più insieme un weekend perfetto come gli accadeva nei primi tempi della Formula 1. Ha detto ieri Marchionne, il rinnovo di contratto l'ha messo sereno, evidentemente non è bastato nemmeno quello. Sull'altra questione, quella che ha tenuto banco, cioè futuro di Monza, io rinvio tutti allo splendido articolo oggi di Pino Allievi sulla Gazzetta dello Sport. Ieri ha avuto l'occasione, la fortuna di presenziare l'incontro tra Eccleston e Maroni. Chi volesse farsi un'idea, che io sintetizzo in 10 secondi, Monza chiede disperatamente, ottiene altri 3 mesi per cercare i soldi, ma fin qui evidentemente non li ha trovati. Insomma, vada a leggerselo sulla Gazzetta. Dimmi solo in come sintesi, dice Terruzzi, Pino, è una questione di soldi, è che sono fa il suo mestiere. Quante possibilità abbiamo di tenercelo questo Gran Premio? Io dopo aver letto il tuo pezzo dico poche. Sì, in questo momento sono poche, ma poi alla fine l'Italia trova sempre il modo di salvare tutto. Pensavamo che non si facesse l'Expo, invece siamo persino andati a vederlo. Non abbiamo visto un siamo persino qui a trasmettere. Ecco, quindi io credo nel miracolo che Monza possa salvarsi, nonostante gli interlocutori di Eccleston in questo momento debbano rivedere la strategia. Sì, le proprie convinzioni. Saluto Giorgio Terruzzi, Pino Allievi, grazie, alla prossima. Dario, tu ovviamente resti lì pronto ad entrare in diretta nel momento in cui si saprà che cosa succede di Lewis Hamilton. Si fa tardi, ma noi aspettiamo. Dice un amico in Rai, dicono che ieri hanno squalificato 2 piloti per lo stesso motivo, quindi Giovanni da Carovigno, quindi noi siamo qui e aspettiamo, mandiamo il meteo, poi noi restiamo qui e aspettiamo. Ciao a tutti, ciao Ricci, ciao Ciccio, ciao Nanni. Sì, presidente Renzi. Beh, innanzitutto abbiamo una testimonianza da Monza, direttamente. Esattamente, innanzitutto perché volevo il presidente Renzi oggi era a Monza. Adesso mi lascia parlare. Innanzitutto no, volevo complimentarmi con Sergio Marchionne, e mi ha salutato e ascoltato a questo Gran Premio GP a Monza. E io quando arrivo porto sempre fortuna. Prima della partenza ho salutato pure Kimi e gli ho detto buon Gran Premio, I wish. Non ha avuto un grandissimo Gran Premio. Good race. Non è nemmeno partito, presidente. Ma questo non è vero. Gli ha provato un po' iella. Io tifo la rossa. E c'è chi dice che sono sportivo, ma sono sportivissimo al 100%. E così ho incrociato anche Nico. E gli ho detto Rosberg. Gli ho detto la stessa cosa. Ho detto I wish you a good luck. Gli è esploso il motore, presidente. Mi e sa magari che stasera chiamo pure Conte, chiamo pure Pianigiani. No, e chiamo non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso, Carlo. No, una non buona mi sembra il caso. No, lasciamo stare. Lascia stare, lascia stare, presidente. Ciao Carlo. Ciao, bravo. Fai bravo. Meteo, torniamo subito. Allora voglio dire una cosa. Dilla. Ve la dico? Sì. Sembra che Raikkonen stavolta sia imbottigliato sulla Lecco Colico. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. 800 24 00 24, quindi qui pronti per raccontare in diretta appena arriva la decisione sull'eventuale squalifica o penalizzazione o nulla per Hamilton, che ha vinto il Gran Premio di Monza. Qui per raccontare tra poco meno di mezz'ora anche Italia-Islanda di pallacanestro, qui per raccontare la vigilia d'Italia-Bulgaria questa sera a Palermo, qui per ascoltare anche il vostro parere. 800 24 00 24, qui è il padiglione CBU 6 Italia di Expo. Se volete raggiungerci abbiamo premi, regali, se volete intervenire. Roberto da Firenze. Buonasera a tutti. Buonasera. Si parlava della nazionale, della crisi della nazionale. Ora io non so se la mia sia un'analisi semplicistica, ma la sensazione è che anche il calcio italiano e quindi la nazionale sia un'espressione del più generale degrado del nostro paese, dell'incapacità o mancanza di volontà di formare e valorizzare i nostri talenti. Non so, forse può essere interessante, ammesso che questa analisi possa avere una qualche valenza, indagare se c'è un'incapacità o se c'è una mancanza di volontà. Ecco tutto. Di cosa? Mancanza di volontà di che di chi? Di valorizzare i nostri talenti. I talenti sono quelli che sono, cioè sono lì da vedere. Poi ne abbiamo alcuni che sono prescritti o che sono non disponibili. Cioè, secondo me, detto fuori dai denti, i migliori attaccati italiani sono Destro, Balotelli, Giuseppe Rossi che è rotto e Osvaldo che è impegnato in altre cose. Questi sono i quattro migliori attaccanti italiani. Credevo di aver capito la discussione precedente, che sono pochi. Perché sono pochi? Rispetto agli anni passati non producevamo sono pochi per mille motivi. Roberta, hai ragione, sono pochi per mille motivi, sono pochi perché probabilmente ci sono anche questioni culturali di difficoltà di approccio dei nostri ragazzi allo sport, non solo al calcio. Sai a chi lo chiediamo? Non pratica calcio, pratica basket, però è un campione che ha segnato la sua epoca. Dino Meneghin. Ciao Dino. Dino. Sì, buonasera. Praticava. Perché purtroppo non pratica più. Non pratica più. Perché non nascono fuori classe nel calcio in Italia? Poi nel basket forse viviamo una delle stagioni migliori da questo punto di vista. Che pensiero hai? Ah, penso che il livello prima di tutto si è alzato moltissimo, quindi si pretende sempre molto da tutti. Forse bisogna migliorare in tutti i campi, non solo nel calcio, ma parlo di basket, volley, quel che sia, migliorare la qualità del lavoro, migliorare la qualità dei tecnici e soprattutto fare un enorme lavoro di base, cioè reclutamento, di far vedere ai ragazzi, sempre più ragazzi, quanto sia bello praticare qualsiasi tipo di sport. Poi in base alle proprie capacità, al proprio talento e attitudini, lavorare sul talento e cercare di incoraggiare, di spingere i ragazzi a lavorare sul talento, perché molto spesso io vedo che tanti pensano di fare il primo canestro che fanno, il primo gol che fanno, pensano già di poter giocare in Serie A e quindi magari molti si adagiano su questo. Sì, però Dino, bisogna far capire a loro dipende dalle mamme certamente, però come tu ben sai, però una nazionale forte così, quella di basket, sinceramente tutti pensiamo di non averla mai avuta dal punto di vista del talento. Beh, se guardi i giocatori singolarmente, sicuramente vedi che sono atleti di prima piazza, di grande talento, capacità, nonostante la giovane età sono anche molto esperti, perché certo, a certo. Poi chiaramente i risultati sono sempre quelli che contano, no? Perché se vinci sei un dio, se perdi non lo sei, cosa di peggio, per cui bisogna capire esattamente fino a dove possono arrivare questi giocatori. Però sicuramente non è mai capitato che noi potessimo avere 3-4 giocatori, compreso Datome, che l'anno prossimo giocherà in Turchia, ma fino alla fine del campionato scorso noi avevamo 4 italiani che giocavano nel campionato di ieri, che è il campionato più forte del mondo, quindi vuol dire che il lavoro è stato fatto e bisogna continuare su questa strada, anche perché i nostri ragazzi, vedendo che Bargnani, Bellinelli, Gardinari ce l'hanno fatta e dicono: beh, se ce l'ha fatta loro, se lavoro, se sono critico, se mi alleno, forse un giorno posso arrivare. Vuol dire, Dino, che ieri sera con la Turchia ci siamo buttati un po' via noi. Sì, questa è la sensazione, sì, certo, che credo, Giovanni, abbiano avuto tutti, certo, davanti al, certo, televisore. Certo. Sì, Dino, penso di sì, anche se siamo stati sempre un po' sotto nel punteggio, penso che l'Italia non si sia espressa secondo quanto potrebbe. Teniamo presente che la Turchia comunque è un'altra, una squadra forte, quindi bisogna tenere conto anche della forza degli avversari, che sono anche molto esperti. Io penso che oggi, questa sera si gioca contro l'Islanda, penso che sia assolutamente una squadra arrabbiatissima per l'occasione sprecata ieri, e quindi vedremo sicuramente un'altra Italia. Si può far bene in un europeo anche partendo male, come abbiamo fatto ieri, con l'aggravante che ieri per noi era già quasi una finale, vista la difficoltà del girone, la necessità magari di non arrivare quarti ma terzi per evitarsi la Francia, continuare a coltivare il sogno dell'Olimpiade. Poi c'è Gallinari, che tu conosci bene, che i tifosi di Milano conoscono bene, che è la sintesi di che cos'è il basket, bello e crudele. Tu puoi essere perfetto per 39 minuti e 52 secondi, poi trovarti per le mani il tiro libero del pareggio e sbagliarlo. Io non so cosa passi nella testa di un campione, lo chiedo a te che un campione sei stato. Beh, ma sai, in quei momenti non è forse una cosa psicologica, ma magari anche un po' di stanchezza. Io penso che magari la squadra ha puntato troppo su di lui per tutti i 40 minuti. Io preferisco vedere alla fine della partita uno score dove ci sono 7-8 giocatori che hanno fatto 10-12 punti a testa, piuttosto che vedere un giocatore che ne ha fatti 35. Questo vuol dire che l'attacco è stato distribuito, tutti sono pericolosi, e quindi è una dimostrazione di forza collettiva. L'affidare sempre tutto a un giocatore può essere pericoloso, come è successo anche ieri, per cui non so, arriva alla fine che questo proprio non ce la fa più, per cui l'errore, che sembra umano, riesce a portare, ecco. Sì, Carlo, detto questo, abbiamo visto anche altri partire a fatica. No, il la problema Germania è che l'Islanda, la Francia pure. Sì, l'Islanda ieri ha fatto tremare la Germania di Nowitzki. Però il discorso è che il grande interrogativo di questa nazionale è che abbiamo un sacco di giocatori di talento, forse non ne abbiamo mai avuti così tanti di talento, però manca una sorta di gerarchia. E Dino sa benissimo come ci vuole D'Antoni che palleggia e gioca il gioco a L, Premier che esce e tira, Meneghin che prende il rimbalzo. Una squadra è fatta anche di queste cose, anzi è fatta soprattutto di queste cose. Il grande dubbio di questa Italia è che non ci sono gerarchie precise, cioè grandi giocatori, però a chi va l'ultimo tiro? Chi esce dal blocco? Chi fa il gioco a L? Chi si sacrifica per gli altri? Sono questi i grandi interrogativi. Beh, guarda, io ho visto le partite di precampionato e la squadra, quando la palla girava veloce da una parte all'altra del campo in attacco, tutti toccavano il pallone, questo collassava la difesa, schierava sempre un tiro, il nostro giocatore è completamente libero. Quando invece un giocatore si intestardisce nel palletto uno contro uno e passano i secondi e gli altri sono tutti fermi a vedere questo cosa farà, eccetera eccetera, poi va a finire che non si conclude mai niente. Quindi come sempre è il gioco di squadra, la palla che deve girare, tutti si devono sentire coinvolti, altrimenti dopo cominciano magari a venire fuori le, non dico gelosie, ma incomprensioni, per cui dice quello lì ha fatto 4 tiri di fila, adesso tocca a me, e magari tira in un momento dove il tiro non c'entra niente, nessuno preparato per il rimbalzo e quant'altro. Quindi e poi magari vengono fuori anche periodi come il primo di ieri sera, quello che ci ha poi condannato a perdere. Vi devo fermare e salutare, almeno devo salutare Dino Meneghin perché c'è il traffico. Dino. Grazie Dino. Grazie a voi, buon lavoro, grazie a voi, un abbraccio. Ciao ciao. Grazie Dino Meneghin. 800 24 00 24, poi 349 238 6666, tutti scatenati a dire che la Formula 1 è lo sport più noioso di tutti. State scrivendo, non è vero, sono le 17:47, ancora non sappiamo chi ha vinto il Gran Premio di Monza, quindi però siamo qui per raccontarvelo, eh. Sì, Gio, però questioni burocratiche. È divertente, traffico. Finisce qui, vince la Turchia 89 a 87. Una grande partita di pallacanestro. L'ha vinta la Turchia, che è stata avanti per tanto tempo, ma noi avevamo chiesto. chiesto una reazione all'Italia e la reazione dell'Italia c'è stata. Non basta, ma c'è stata. Tutti convocati. Tutti convocati. Quando uno non gioca non si deve lamentare perché non gioca, perché è il campo che parla, perciò quando ci sono queste occasioni bisogna sfruttarle, e oggi capisco che magari partite di questo genere possono portare un po' di noia e tutto, ma noi siamo Milan, professionisti, dobbiamo fare il massimo tutte le partite, perciò dopo quando non si fanno le cose bisogna, ci sono le conseguenze da pagare, non c'è nessun problema. Mihajlovic che sta riempiendo le pagine mica dei male, mica il suo male carattere Sinisa. Un po' così, aria di tempesta Milanello. Noi abbiamo chiamato uno che è stato giocatore, quindi gli allenatori magari anche quelli un po' burberi li ha vissuti, è stato un grande allenatore anche se credo con un carattere diverso da quello di Mihajlovic, Emiliano Mondonico. Ciao Mondo. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io ho 9 cani in coda in questo momento perché a questo telepass punto devono mangiare. Hanno il telepass al collo? No, più che un telepass hanno fame, perché fanno un pasto al giorno e proprio un quarto alle 6. Perciò fate voi, diciamo che 3 sono Labrador e sono abbastanza tranquilli, uno è un cane da caccia e c'è un coniglio che da tenere a bada, gli altri 5 sono bastardini, sono quelli che si incavolano di più. Comunque bravo, diciamo Mihajlovic. Che ringhiano meno di Sinisa. No, ringhiano, anche se chiaramente hanno ancora un po' di timore, non so se rispetto o timore, oppure mi prendono in giro, non lo so, però sai, gli dai da mangiare, e quando a uno dai da mangiare è sempre tuo amico, ti aspettano, ti fan festa quando arrivi, ti seguono, ma non perché mi vogliono bene, perché gli do da mangiare. Sinisa perché però, Mondo? Bravo Sinisa, perché da giocatore ero incazzato anch'io con gli allenatori che non mi facevano giocare, non capivano niente e non sapevano di qui e non sapevano di là, poi se c'era qualche dirigente che mi dava la spalla su cui appoggiarmi, mi appoggiavo e dicevo ma questo non è capace di qui, non è capace di là, poi dopo ho fatto l'allenatore e chiaramente ci sarà stato anche qualcuno che ragionava come me, anche se mi auguro non sia successo, e perciò il discorso è che un allenatore cioè non è che ha piacere a far giocare uno o lasciare fuori un altro, l'allenatore cerca di far giocare quelli che secondo lui stanno meglio di altri. Quando perdi una partita vai a farle amichevoli, fai giocare quelli che non giocano, ed è chiaro che questi non mettendo assolutamente in evidenza il fatto che siano la squadra B della rosa, non si impegnano, e perciò ecco che tu dici vedi, io non li faccio giocare, però non si impegnano, e perciò bisogna trovare una via di mezzo, altrimenti se fai muro contro muro è chiaro che hanno sempre ragione tutti, chi non gioca perché dice l'allenatore non capisce niente, l'allenatore perché dice vedete quando li faccio giocare non la beccano mai. Beh, il mestiere allenatore, è far giocare quelli che devono giocare, però cioè il mestiere allenatore è far capire ai giocatori che nessuno è masochista, capisci? Nessuno si taglia le cosiddette per fare un dispiacere alla moglie, certo. E perciò io dico cavoli, guardate che gli allenatori sono lì pronti a darvi la possibilità, ma è che voi dovete meritarvela. Ormai tutti quanti hanno un nome, tutti quanti hanno un pedigree, tutti quanti hanno un passato, ma è importante il presente e il futuro, e perciò uno non si diverte in questo momento. Rosa di 25, 11 giocano, 14 si incazzano. tutti quelli che stanno fuori, per usare una sintesi. È chiaro che questi questa è la norma. Ecco, bisognerebbe trattarli un po' meglio, parlarli assieme di più, fargli capire. Però ma no, ma perché? Ma se lo devono meritare, no? Ha ragione Mihajlovic. Ha ragione Mihajlovic a dire abbiamo visto perché questi non giocano. Però no. Il discorso cos'è? Che noi siamo allenatori, noi abbiamo un po' più di esperienza, abbiamo, si spera, un po' più di maturità. Come fai a dire a uno te non giochi perché sei più scarso di un altro? Capisci? E allora vai a tirar fuori tutto, vai a tirar fuori l'impegno, l'approccio, l'intensità di allenamento, cioè tiri fuori un sacco di balle, però sì. alla fine il problema è che uno non gioca perché è più scarso di un altro, però non si può dire. Non scarso, però non possiamo dire che Montolivo è il giocatore più scarso del centrocampo in una rosa di centrocampo del Milan che è un disastro. Non possiamo dirlo. Però se non gioca ci sarà qualche ragione, no? Ma in questo momento Montolivo arriva da un infortunio, vedi anche qui quando arriva dagli infortuni, arriva dagli infortuni è uno spettacolo, perché arriva sempre da un infortunio, uno si è infortunato 2 anni fa e perché arriva da un infortunio, ma si è infortunato 2 anni fa, perciò dovrebbe già essere a posto, però uno arriva dall'infortunio, poi c'è una roba che aiuta noi allenatori, anche oggi in Serie B è successo, l'infortunio dell'ultimo minuto, tu sei, cioè prima di andare in campo, sì, tu sei indeciso su chi giocare, alla mattina arriva il medico e ti dice guarda che questo ha avuto dissenteria, benissimo, sì, gioca l'altro, oppure qualche dolorino, oppure qualcosa nel riscaldamento, di poco certificabile, questo arriva fa, ma ho sentito tirare di qui, tirare di là, e l'allenatore dice ma vai, meno male, è andata, no, ma tu fai ma cavoli, oggi puntavo su di te, porca puttana, ma pensa a te, stavi così bene, no, non si dice, chi metti dentro il suo posto fa gol, e poi magari arriva sempre il dottore e dice ma guarda, bisogna operarlo, stai zitto, bisogna operarlo, che lo perdiamo per 2 mesi, e tu dici no. Il dottore, io però non credo sia questo il caso. Ma lo so bene, Mondo. Lo so bene, Mondo. Che ogni allenatore ha il dottore che dice: no, guarda qui, no, ma guarda le lastre, ci sono infortuni che vanno ad elastico, il dottore che ti dice ma devo dire al ragazzo che ce la fa o devo dire che non ce la fa? Certo, lo so bene. Tutto è lì, no? Lo so bene. Non è un discorso che ce la fa o non ce la fa, è importante, devo dire che ce la fa o dire che non ce la fa, certo. E perciò se tu eri in dubbio non ce la fa. Ne ho sentite un sacco di stare. E il problema è risolto. Altrimenti se non ne puoi fare a meno, uno ce la fa anche se ha una gamba rotta. E anche lì poi nascono problemi, ecco, lo staff medico storicamente li abbiamo visti. Mondo, ti devo salutare perché c'è il GR. Ciao mister, sempre un piacere, Mondone, anche i miei cani mi salutano, adesso col gli vado a mangiare. Ciao, vanno a mangiare. Siamo praticamente in chiusura della prima ora. Buonasera, presidente, ci ha raggiunto. Buonasera, parlavamo del Milan, Mihajlovic. Esattamente, io volevo dire semplicemente questo, visto che si parlava della nazionale, sì, è un nostro patrimonio, sì, e bisogna sempre, sì, sostenerla, no, ma, anche no, se non no, ha giocatore. Ma non ci interessa, ci dica invece, ha sentito Trapattoni la metafora della spugna? No, perché oggi, Carlo, nella seconda ora lanciamo questa cosa. Cosa voleva dire la metafora della spugna di Trapattoni? Allora, Trapattoni, che è un grandissimo milanista, ha voluto dire una cosa molto saggia, e precisamente che la patonza deve girare. No, non ha detto questo. Ci troviamo dopo il GR. Dopo il GR. Ragazzi, ci sono, fra poco, tutti convocati weekend, 800 24 00 24. Se becchiamo, fra poco, Tutti convocati. Qua stiamo parlando della squadra top. Convocati. Sono tante, qualcuno diceva, ho letto oggi che ambirei ad arrivare a 200, ma tassativamente vi dico che non è un mio obiettivo. Sicuramente quello che penso e spero di fare è di farmi trovare presente e di fare partite di di alto livello e di performare ancora ad alto livello. Poi se saranno 10, 20, 30 o 2, quello lo vedremo. Intanto questa sera Buffon fa la partita numero 150 con la nazionale Italia-Bulgaria, partita che non ci stancheremo mai di ripeterlo, vale quasi come un match point sulla strada delle europee del 2016. 800 24 00 24, siamo padiglione Cibus Italia all'Expo, quindi se volete ci venite a trovare, come ha fatto per Luigi Pardo. Ciao Pier, come va? Come va? Non c'è, ciao, male Pierino. C'è anche Carlo, mi sentite, vero? Sì, come no. No, perché sono... sufficientemente bene, sufficientemente bene. Ormai ho il panico tutte le volte. Come va? Sì, ma non c'è male. No, io voglio chiedere a Pardo una cosa. Oggi ha avuto il suo debutto su una pista di Formula 1. Emozioni, sensazioni. Bellissimo, rumori. Rumori poco, un po' perché poco, non fanno più rumore, non fanno più rumore le macchine. Poi le macchine fanno, però tanta gente, tanti ragazzi, tante foto, tanto divertimento, tanta passione, quindi no, bellissimo. La gara, non sono un esperto di motori, non mi è sembrata fra le più divertenti della storia della Formula 1, perché ci sono stati pochi sorpassi e poche emozioni. Però bello, insomma, mi viene anche da dire sei Monza, nel senso che veramente questo è un circuito, un pezzo della storia del nostro paese, è stato il momento dell'inno nazionale, le frecce tricolori. Io ti dico la verità, non sono mai stato particolarmente tradizionalista, però c'erano delle cose che mi piacciono e devo dire che oggi mi sono divertito al di là della sfida dei motori, la quale mi interessa poco, tra l'altro un po' mi è dispiaciuto per Nico Rosberg, che ho conosciuto l'altra sera a una serata, insomma, e comunque rompere il motore a due giri dalla fine mi è dispiaciuto. Insomma, sono contento che le Ferrari abbiano dimostrato di essere nuovamente competitive, credo che Hamilton sia più forte di tutti, insomma, senza alcun dubbio. La notizia. Il Camaro più veloce del mondo, che la vittoria di Hamilton è stata confermata. C'è Alfredo Dabiella che ci aspetta da prima del GR, quindi io direi 800 24 00 24, gli facciamo un monumento e lo mandiamo in onda. Alfredo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ho sentito che Hamilton gli ha confermato la vittoria e ritengo che sia una cosa giusta, perché volevo intervenire sul problema: quando una vettura sulla linea di partenza non è conforme, o non si fa partire, mentre se l'hanno fatta partire è perché l'hanno ritenuta conforme in quel momento, e quindi obiettare dopo che ci siano dei problemi di sicurezza è una cosa assurda. Quando sulla linea di partenza una macchina ha una gomma bucata, viene rifatto l'allineamento, la macchina viene inviata ai box perché sostituisca la gomma e parta in modo di sicurezza. In questo caso non hanno ritenuto di fermarle, quindi è valida la gara di Hamilton, quindi ho sentito che hanno confermato la vittoria e niente, per esprimere solo il mio parere, una mia opinione sulla cosa. Sì, ma poi è anche bene che il più forte vinca, senza che la gara sia decisa a tavolino con mille retropensieri. Li abbiamo anche fatti nella prima ora con Giorgio Terruzzi e Pino Allievi, che sono due maestri della Formula 1. Il passato ci insegna qualche volta, insomma, la federazione ha anche preso delle decisioni politiche con squalifiche e qualche cosa che è intervenuta per tenere aperto un mondiale che, insomma, mi pare di poter annunciare, tra l'altro con la conferma della vittoria di Hamilton, è definitivamente chiuso. Noi però abbiamo iniziato con la nazionale, 800 24 00 24, io invito tutti, siamo a poco più di due ore da Italia-Bulgaria. Abbiamo detto prima, Pierre, probabile maglia da titolare per El Shaarawy, quasi certa esclusione per Pirlo, grande problema della nostra nazionale, non abbiamo più i talenti, ce ne siamo accorti adesso. Sì, non abbiamo più i talenti, questo è evidente, però insomma, questo è un calcio ormai molto, molto equilibrato, dove ci sono nazionali non tradizionali come ad esempio l'Islanda o l'Albania che possono fare benissimo, l'Irlanda del Nord. Quindi secondo me il fatto che non abbiamo più il talento che certamente avevamo per esempio negli anni 90 è un problema, ma non è un problema così insormontabile, almeno per quello che è il primo obiettivo, cioè arrivare in una delle prime due posizioni. Stasera non mi aspetto una nazionale brillantissima sul piano dello spettacolo, ma spero e penso che la porti a casa e passo dopo passo si conquisti questa qualificazione. e poi l'estate prossima magari qualcosa di più avremo, nel senso che qualche talento sboccerà, che magari ci aggrapperemo, come poi è successo nella storia, perché nel 1990 noi avevamo una grandissima nazionale, per fare un esempio, però poi ci siamo aggrappati allo stellone di Lasci in quel momento lì, no? Quindi poi hai sempre comunque bisogno di star bene, dei 3-4 giocatori che stanno benissimo in un momento particolare, e la vera partita sarà ovviamente in Francia. Insomma, io ho visto la Grecia vincere gli europei, quindi insomma va bene tutto, so benissimo che può valere tutto in una competizione molto breve, adesso importa soltanto passare il turno. Certo, se facciamo un discorso di medio periodo, non è certamente il momento migliore della storia della nostra nazionale, questo è evidente. Forse uno dei peggiori. Ma sì, forse uno dei peggiori. Uno dei peggiori, cioè... Negli anni 70 abbiamo anche attraversato momenti non facili come sì, questo. Ma non so se eviterei anche le drammatizzazioni. Ma esatto, perché per dire. Ma difficile fatto... fare i confronti epocali comunque. Sì, difficile fare. Però voglio dirti che secondo me, allora, o tu analizzi a macro periodi. E allora sicuramente il calcio in Italia negli anni 90 era migliore di quello di oggi, anche la, come spesso ricorda Lippi, anche la nazionale che ha vinto nel 2006 aveva, anche se non era favorita prima di quel mondiale, però aveva rispetto alla nazionale di oggi una quantità di talento e di personalità che questa qui non ha. Però sì, poi alla fine la stessa nazionale due anni dopo è uscita all'Europeo, quattro anni dopo è uscita contro il Sudafrica, poi nel 2012 sembravamo bolliti, invece per poco non vinciamo l'Europeo. Secondo me siamo molto di più che nel calcio di club. Nelle nazionali poi la differenza la fanno dei dettagli, la fanno dei momenti di forma, la fa appunto una determinata condizione che la squadra riesce ad avere per 20 giorni di tempo, e questo lo vedremo a maggio-giugno. In questo momento noi non abbiamo una generazione clamorosa, ma non ce l'ha più neanche la Spagna, per dirti, che ha dominato fino al 2012. In questo momento mi sembra che forse il calcio dominante può essere quello tedesco, ma non in una maniera così assoluta, insomma sono catastrofista, sì. Ecco, devo affermare che c'è il traffico, abbiamo comunque tempo di parlarne fino alle 19:08:00:24:00:24. Do anche un aggiornamento perché seguiamo la pallacanestro, seconda partita del nostro europeo, siamo avanti di 5 punti, 22-17 contro l'Islanda, quando sta per terminare il primo quarto. Traffico. Ma è figlia di tutti, se si vince, quando si può attaccare è figlia di nessuno, perché comunque ognuno vorrebbe nella nazionale l'ideale in assoluto. L'importante è che non abbiamo niente da recriminare prima di tutto con noi stessi, ecco, poi gli altri che facciano le proprie valutazioni. Tutti convocati. Tutti convocati. Guardate, a me dispiace quando sinceramente riuscite il giorno prima a far passare un giocatore insostituibile e il giorno dopo ad accantonarlo a non essere più buono. A me dispiace perché io vorrei un po' più di equilibrio, ma è inutile andare a rimarcare. Le fa un po' specie aver letto sui giornali che Pirlo può essere diventato il problema dell'Italia, visto che non ha giocato bene, lei l'ha venduto, pensa di aver fatto un affare, costandogli poi? No, perché credo invece che tutto abbia una sua fine, quindi è evidente che il ricordo di Pirlo per me italiano è quello di ricordarlo come campione del mondo, come dirigente della Juventus. Ricordo come uno degli artefici di questo cammino trionfale. È logico che chiaramente poi arriva un momento in cui bisogna attaccare le scarpe al chiodo, non so se per lui sia già arrivato, sicuramente sono scelte che deve fare lui. Queste le parole di Marotta su Pirlo, che oggi hanno generato anche discussioni sui giornali. Juventus un po' stupita, a quanto mi risulta, dell'interpretazione data. È stato detto, Marotta ha risposto a una domanda precisa dicendo che comunque sarà Pirlo a sapere bene quando valutare se è il momento di staccare con la nazionale e più in generale di ritirarsi. 800 24 00 24, intanto saluto Fulvio Colovati che ci ha raggiunto, ciao Fulvio. Ciao Giovanni, buonasera, buon pomeriggio. Ciao Fulvio. Ciao, c'è Pierluigi Pardo. Beh, possiamo dire che Pirlo è un po' l'emblema di questa crisi di talenti del nostro calcio. Se siamo appesi a un vecchio ragazzo di 36 anni, abbiamo scoperto che giocando in America ha perso un po' la gamba, il ritmo, forse può diventare un problema. È un problema perché mancano 9 mesi all'Europeo. Tu Fulvio cosa ne pensi? Vabbè, è un film già visto, secondo me. Un film già visto, nel senso che vabbè, è normale che Pirlo abbia perso smalto andando a giocare un campionato completamente diverso come ritmo, come aspettative, come tensioni rispetto al nostro. Ma dicevo, è un film già visto perché è un classico. Pirlo, che è un punto di riferimento, secondo me lo sarà anche i prossimi europei, non sta bene, la stampa lo critica, l'allenatore lo difende, cerca di fare un po' quello che ha fatto, non so, 30 e passa anni fa Berzot difendendo i propri giocatori, quello che ha fatto Lippi nel 2006, per cui speriamo che tutto questo serva la critica, che secondo me in questo momento è anche giusta, perché si è un po' scatenata contro Pirlo, però io a fianco di Pirlo ho visto grandissima positività, per cui non è solo Pirlo. Se mettiamo in discussione Pirlo, allora non vedo gli altri. Cioè, vedo poco. Senti, altro Fulvio, quanto vale l'attacco Pelle ed Erra in valore assoluto? Allora, ti dico una anche cosa: Pelle, Candreva e Sharawi, che dovrebbe essere quello di stasera. Sì, Candreva e Sharawi. Ma noi nel dimmi quanto vale. Ci siamo presentati con Del Piero, con Totti, e non parlo dei miei anni, attenzione. Parlo di Luca Toni, così adesso ti presenti con Pelé, con Eder, con tutto quanto il rispetto. Vale? Quanto vale? Sono giocatori sì, che si stanno mettendo in luce, però. Mezza classifica della Serie A, giusto? Secondo me sì. Non dico da metà classifica, ma forse leggermente sopra. Ecco. La realtà è questa. Sesto, ma questo è un po' il simbolo di quello che Serie A. È un simbolo di quello che sta succedendo un po' nel nostro campionato, dove nella classifica dei cannonieri sono tutti stranieri e nelle nostre punte c'è pochissima scelta. Una volta eravamo carenti di... Adesso qualche difensore, vedi, comincia ad emergere, tipo Romagnoli, tipo Rugani, e in compenso stiamo cominciando a essere carenti di punte. Un po' la sintesi del momento difficile che sta attraversando il nostro calcio. Sì, il problema è che se non facciamo sintesi, e cioè mettiamo insieme un po' di talento per ogni reparto, tra 9 mesi sarà difficile fare bene in Francia, dove potremmo sbarcare quasi con la certezza, non dico aritmetica, ma insomma questa sera battendo la Bulgaria. Si discuteva anche, Pier, sulla mano di Conte o no, cioè se si veda il valore aggiunto di questo allenatore. No, mio parere Conte esagera nel prendersela con le critiche. Quello che ha fatto vedere negli ultimi 6 mesi è poca roba, e non solo nell'ultima settimana. Pierluigi Pardo, Fulvio Collovati, cosa ne pensate? No, io credo che scusa, vai Pierluigi, vai. No, allora, per me la mano di Conte ovviamente non si vede, e penso che il primo a non essere di piazza sia proprio Conte. È anche vero che probabilmente lui si aspettava, sperava, forse in maniera un po' ingenua, di poter avere più spazi e la possibilità anche in nazionale di far valere la sua qualità. Io ricordo una bella chiacchierata con cui non te sentiamo, Pier. E come non mi sentite? Sto qua. Te sentiamo. Vai più o meno come l'attacco della nazionale italiana. Meglio. No, così molto meglio. Vai. Così meglio. Allora, è uscito da una grotta di Al-Qaeda. No, ti dicevo, quindi secondo me lui è il primo a non essere in piazza. Detto questo, come dicevamo qualche giorno fa, non c'è niente di grave, niente di catastrofico. Se guardiamo la classifica, il percorso è assolutamente in linea, ci sono altre nazionali di livello e di tradizione che sono in difficoltà anche più di noi. Ieri la Spagna è riuscita a conquistare il primo posto giocando finalmente la Spagna, battendo la Slovacchia. La Germania adesso ha superato la Polonia, ma ha avuto delle difficoltà. L'Olanda rischia di andare fuori. Insomma, tanto secondo me l'Olanda siamo... è sotto in Turchia, 1-0 gol all'ottavo minuto di Osimhen. Rischia addirittura il terzo posto del girone. Quindi insomma, voglio dire, non c'è niente di catastrofico. Sicuramente ad oggi, insomma, la speranza che avevamo, che io stesso avevo, di un allenatore che riusciva a trasferire alcuni concetti molto rapidamente, non è stata. E perché probabilmente Conte è bravo, sicuramente è bravo, ma ha bisogno anche lui di un po' più di tempo, come in una squadra di club, e questo tempo non ce l'ha. E che voto gli dai, Fulvio? Che voto dai ad Antonio Conte? Ma per come si esprime l'Italia, 5, per come mi aspettavo, è chiaro, per l'Italia si qualificherà sicuramente e sarà probabilmente anche in questo povero calcio europeo, sarà una delle protagoniste nonostante tutto, del prossimo europeo, a quel punto gli darei 7. Però il problema è che ho l'impressione che Conte si sia già un po' stufato di questa nazionale. Conte, ha ragione Pierluigi, Conte è un allenatore della squadra di club. Conte queste motivazioni, questi stimoli li può dare solo a chi allena giornalmente, non può una volta ogni 2 mesi, una volta ogni 3 mesi, uno non può ricevere l'input, non può ricevere lo stimolo se tu i giocatori li vedi ogni 2 mesi. Conte non è in linea con questo modo di pensare e di intendere il calcio, sì, li vuole martellare tutti i giorni. Però un po' il discorso qua che si faceva per Lippi, Fulvio. Sì, ma per quello che io all'inizio del mio discorso poi ho parlato di Lippi, ho parlato di Berzotto, che poi dopo in linea succederà così, è un film già visto, succederà che poi la nazionale si qualificherà, giocherà male, arriverà alle prime partite di qualificazione giocando malissimo, poi dopo allora subentrerà il cerchiamo di compattarsi tutti, l'allenatore contro l'esterno, contro tutti, quello che lentamente sta già succedendo, e allora lì probabilmente vedremo un'Italia che giocherà contro di tutti, magari un'Italia certo diversa, però una volta avevi dei valori, secondo me, parlo anche del 2006, che sono completamente diversi, valori tecnici, rispetto a quelli che hai adesso. Sì, non è un caso che questa sera Buffon faccia la 150esima presenza, De Rossi credo la 101esima, e stiamo parlando, siamo qui aggrappati a Pirlo, che anche lui è in tripla cifra. O giù di lì, io poi resto convinto, e con questo saluto Fulvio Collovati, che da qui a maggio recupereremo Balotelli, perché Conte si è reso conto che difficilmente può fare a meno di questa idea, di questa speranza di talento, una delle poche in quel settore per l'Italia. Io non so come andrà a finire, ma credo che di sicuro sia in cima alla sua agenda delle priorità, Fulvio. Ma io penso che tu abbia ragione. La cosa non è che mi faccia molto piacere, perché è un giocatore che stiamo aspettando da 3-4 anni, però con la povertà di talenti che abbiamo in giro, lui nel DNA le qualità ce le ha, per cui secondo me sicuramente sarà come hai detto tu, sarà così, Balotelli ritornerà in nazionale e poi dopo ci aggrapperemo come abbiamo fatto in Italia e Germania nel recente europeo, ci aggrapperemo ai suoi gesti tecnici, non a un gioco collettivo ma a un gioco individuale, diciamo alla capacità individuale del singolo. Grazie Fulvio. Grazie a voi. Ciao. Ciao a tutti Fulvio. Voi. Ciao. Buonasera. Ciao Fulvio. Intanto l'Olanda è sotto 2-0 in Turchia. Ha raddoppiato Arda Turan al 26esimo. E attenzione, perché l'Olanda rischia non di andare allo spareggio come terza, ma di restare direttamente fuori dall'europeo. E sarebbe davvero qualcosa di clamoroso. Turchia 2, Olanda 0. Questo è il risultato che sta maturando nella prima mezz'ora. 8-0-0-24-0-0-24. C'è Carlo Staroma. Complimenti vivissimi per la trasmissione, veramente. Nonostante tutto, io penso che la nazionale, in questa nazionale c'è troppo business, c'è troppo stress, ci sono dei cicli nella vita, e come la frutta, e sono mancate probabilmente le gabbie, le ripartenze, quando esce sulla fascia, se esce troppo, se si riesce a fare qualcosa. Però visto che usa la metafora, mister Arrigo, perché non ci spiega la metafora del trap, che è questa grande cosa, Pier, tra l'altro tu da telecronista ci puoi aiutare, la metafora della spugna del trap. Saluto anche Pardo, sì, che sicuramente Pardo. complimenti vivissimi per la tua trasmissione. La metafora della spugna del trap. Dunque, le spugne sono organismi aventi corpi ricchi di pori, sì, che permettono un'ampia circolazione di acqua, e alla fine se vengono spremuti perdono l'acqua. Sì, ma però l'importante è, mi lasci finire, sì, Capuano, l'importante è che non ci siano troppi giocatori di colore. Ma non vuol dire niente. Non vuol dire assolutamente niente. Chiediamo a Carlo su un minuto di pazienza. No, non voleva dire niente. Meteo, pubblicità. Detto non vuol nulla. Dire niente. 1-0, risultato striminzito, niente da dire. Dobbiamo far meglio, ma lo sappiamo, ecco. Tutti convocati. Tutti convocati. Aggiornamento sul basket, Italia avanti di due soli punti, sta faticando contro l'Islanda, siamo nel cuore del secondo quarto. Aggiornamento anche sulle partite, qualificazione europeo 2016 in corso di svolgimento in questo momento, intorno alla mezz'ora Repubblica Ceca che vince 2-0 in Lettonia, ma soprattutto Olanda sotto 2-0 in Turchia, due gol nei primi 26 minuti, Olanda che in questo momento, se si chiudesse qui il girone, sarebbe quarta e fuori dall'europeo. Carlos, sì, da Roma, Carlos. Poi passano tutti, Giovanni, lo sai benissimo. È quarta le grandi, la situazione dell'Olanda è complicata. Sì, è complicata, ma poi con questo regolamento ridicolo passano tutti. Carlos. Pronto, buonasera. Buonasera. Grazie della convocazione, vi ascolto sempre. È una critica costruttiva a chi trasmette le partite di calcio. Se non si possono più ascoltare certi cognomi spagnolo con Fernandez, Perez, González, cioè pronunciare bene la... Come bisogna pronunciare? Sta dicendo a Pardo, no? Ecco, sì. Così abbiamo Pier che prende nota. Ci dica. Poi niente, io lavoro sul calcio giovanile e c'è molta ignoranza nel settore giovanile. E questo è il problema grande dell'Italia, che qualsiasi persona che ha fatto l'ex calciatore, che non ha una formazione sia calcistica che universitaria, o curriculare, può insegnare calcio. E c'è questo contrasto in chi ha studiato, chi ha vissuto il mondo scientifico, che può trasmettere i nuovi aggiornamenti della metodologia del calcio che cambia. Sì, c'è un problema di formazione di chi deve formare i giovani calciatori, qualcosa di cui credo parlasse anche Arrigo Sacchi negli anni scorsi. C'è anche questo paradosso di cui si è scritto questa settimana Pier dell'Islanda, paese piccolissimo con 700 allenatori con licenza patentino UEFA. Forse qualcosa del boom dell'Islanda che in questo momento conduce il girone in cui l'Olanda rischia di uscire, qualcosa forse viene anche da questo, cioè da questa capacità di avere degli insegnanti di calcio nelle sopra di 4 nel match di basket dell'europeo. No, ma sicuramente guarda, io qualche giorno fa dicevo a questo punto che abbiamo avuto il secondo indizio della risurrezione economica del nostro calcio, perché abbiamo chiuso la campagna acquisti, come avete letto, come secondo paese dopo l'Inghilterra come quantità di soldi spesi, dopo aver firmato, fra polemiche secondo me spesso un po' ridicole, comunque aver firmato il secondo miglior contratto del mondo dei diritti televisivi, dietro, lontanissimi dall'Inghilterra ma davanti alla Spagna. E quindi con una provocazione dico che adesso tocca ai giocatori e tocca ai tecnici. In questo momento il calcio italiano, al di là delle cose che si possono fare sicuramente sugli stadi, dove però anche gli spagnoli non stanno messi bene, in questo momento l'Italia ha la seconda economia calcistica mondiale, numeri alla mano, e quindi tocca loro farla funzionare poi sul campo, e non ha purtroppo, ai noi, non ha purtroppo. No, guarda, ha scritto un amico a 3:49:238:6666. Negli anni 90 c'erano giocatori di talento, oggi ci sono tronisti tatuati e sagome di cartone. Io non so se sia così, ma di sicuro oggi ci sono anche comune, tante cose che girano intorno. Questo sì, è semplicemente però, un luogo comune. Però ci sono anche tante cose che girano intorno e c'è un po' più di abitudine a perdersi via. Vi chiedo un minuto di pazienza, così andiamo a Monza da Dario Ricci che ci racconta, ma veramente in 30 secondi, la svolta che ha portato alla conferma di Hamilton. Dario. Eccoci qua da Monza, sì, proprio un flash rapidissimo per dirvi vittoria confermata, perché è arrivato il comunicato ufficiale della federazione. Di fatto effettivamente questo calo di pressione sotto i limiti consentiti di questo pneumatico sinistro della macchina di Lewis Hamilton c'è stato, ma gli steward hanno confermato che in realtà la Mercedes ha seguito le procedure così come al momento sono state definite, e gli steward stessi del circuito hanno sollecitato la federazione e la Pirelli stessa a definire meglio questa procedura, che si presta ad interpretazioni quantomeno dubbie, ecco. Grazie Dario. Quindi non penalizzato, non squalificato per assenza di chiarezza nelle regole. Se Carlo vuoi fare un commento, poi tiriamo dritti. Ma no, beh, da pronostico, cioè, no? Che è un bene da che pronostico. Chi domina un gran premio lo vinca. Sì, ma tutto da questo... pronostico, Giovanni. Gli orpelli regolamentari non sono fatti per essere lì, però quante volte abbiamo visto, pochissime, abbiamo visto un vincitore squalificato per questioni di questo genere. Secondo me è anche giusto così. Saluto Andrea Bodi, presidente della Lega di Serie B, che è iniziata ieri sera con Cesena-Brescia, ma di fatto è partita questo pomeriggio con gran parte della prima giornata. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Scusatemi per il collegamento, sono su un treno, spero che... Da Monza, è andato a vedere il Gran Premio? No. Oggi la giornata l'ho vissuta alla radio, che ha il suo fascino e quindi e ne sapete qualcosa anche voi. Sì, qualcosina. Ha avuto fascino anche vedere la Recchi pieno a Salerno, Salernitana-Avellino 3-1. Se vogliamo la cartolina più bella di questa prima giornata di un campionato che parte con addosso il fardello degli scandali di quest'estate che abbiamo vissuto, che purtroppo non è ancora finito. Io so che lei ha detto questa settimana, tifosi, fidatevi di noi. È un fardello però che si sente. È un fardello che si sente nella misura in cui nessuno vuole naturalmente girare la testa dall'altra parte, non vogliamo avere la testa nel pallone, però dobbiamo anche trovare il giusto equilibrio, perché se sovraccarichiamo di significati tutto quello che è successo, rischiamo di sottovalutare tutto quello che di buono è stato fatto e la stragrande maggioranza delle società e dei calciatori, dei tesserati che si sono comportati in modo corretto. Quindi è un gioco difficile l'equilibrio tra l'intransigenza rispetto a quello che è successo e al tempo stesso la valorizzazione di tutto quello che di positivo è stato fatto fino adesso. Sì, oggi è partita bene, gol, spettacolo, abbiamo detto grande pubblico. Io so che lo slogan con cui è stata impostata questa stagione è quello di cercare di avvicinare il più possibile la Serie B alla passione vera, quella che magari gira lontano dai grandi soldi, dai grandi campioni, ma che è un po' la spina dorsale della passione per il calcio in Italia. Ma devo dire che è un po' l'impostazione che abbiamo cercato di dare da 5 anni a questa parte. Sì, il campionato di Mariani, no? È il sesto campionato e quindi è un percorso. Nulla succede così per caso e succede all'improvviso. E proprio nei momenti di difficoltà dobbiamo, secondo me, dimostrare tutti insieme, nessuno escluso, che quel percorso iniziato 5 anni fa stia andando nella direzione giusta. Io ho scritto anche ai tifosi, aiutateci a capire come poter migliorare, perché non abbiamo la presunzione di essere depositari del verbo, e credo che il calcio, per essere quello che è, continuare a essere un grande fenomeno popolare, deve essere un sistema aperto nel quale chi dirige deve saper ascoltare e rispondere. Carlo. Sì, ha ragione Andrea Bodi, è giusto sottolineare le differenze, no, tra la Serie B e la Serie A, è giusto evidenziare anche in maniera sottile questa differenziazione. Cioè, una cosa che mi ha incuriosito è stata quella del cartellino verde, Presidente. Sì, ma è giusto sottolineare, visto, perché vedremo fra qualche settimana. Anche nella Lega 2 di basket si sono inventati tante cose, dall'inno di Mameli cantato prima di ogni partita. È giusto sottolineare questa differenza. Ma intanto noi non la cerchiamo, non è un fatto ossessivo, diciamo, cercare la differenza. La differenza è nelle cose tra noi e la Serie A, e guai se così non fosse, se noi cercassimo di essere quasi una caricatura. Il che non è una diminuzio. No, l'importante è avere una complementarità di ruoli, e l'importante è che tutto questo sia chiaro a chi sta sopra e a chi sta sotto, perché noi abbiamo la convinzione di voler essere al servizio del progetto, del sistema calcio nel suo complesso e di chi lo traina, cioè la Serie A. A volte la sensazione è che la Serie A non abbia idea di che ruolo possiamo svolgere per la massima serie. Molte risorse vengono messe a disposizione della Serie A, mi farebbe piacere anche che un giorno ci si mettesse attorno a un tavolo per stabilire obiettivi comuni. Questo purtroppo succede poco, ma mi auguro che possa succedere di più nelle prossime settimane. Io lo sto ripetendo da mesi, dico sempre nelle prossime settimane, perché lancio dei messaggi e dei buoni auspici di collaborazione, perché secondo me un sistema cresce, crea valore e risponde alle esigenze anche degli appassionati, come nel nostro caso, quando si muove con un minimo di armonia e non quando ognuno pensa di essere padrone in casa propria. Noi siamo una filiera che si scambia squadre alla fine della stagione, mi piacerebbe che si collaborasse di più. Dopodiché i progetti che facciamo li facciamo non tanto perché vogliamo per forza distinguerci, ma perché pensiamo che sia in qualche maniera nella nostra vocazione, forse anche un dovere, quello di migliorare sempre, cercare di riavvicinarsi anche attraverso queste iniziative. Del cartellino verde, soltanto due, un minuto per spiegare, perché in alcuni casi ho letto, diciamo, delle interpretazioni da parte di alcuni filosofi, di alcuni antropologi e di alcuni sociologi che evidentemente non hanno compreso il senso, anche se alcuni giornalisti anche che forse non hanno compreso, per colpa nostra probabilmente, perché non l'abbiamo ancora spiegato, abbiamo lanciato un'idea e non l'abbiamo spiegata, la faremo nei prossimi, diciamo, 10 giorni al massimo, che tanto il cartellino verde è una cosa che va presa sul serio nella misura in cui vuole scoprire, diciamo, la sottolineatura degli esempi straordinari e non degli esempi normali, perché non ne abbiamo bisogno di esempi normali, però in questo momento credo che di esempi straordinari ne abbiamo bisogno. E poi non è figlio di nessuno, noi svolgiamo un'attività sul versante del rispetto, della responsabilità sociale. Oggi ne abbiamo avuto un'altra prova con la lettura del giuramento, che non è un fatto formale e teatrale, è un fatto pieno di contenuti, e la valutazione secondo me è pericolosa se la si fa su ogni singolo elemento, su ogni singola tessera di questo mosaico. Bisogna saper leggere tutte le cose assieme. Il cartellino da solo non sta bene, sta bene in un quadro generale nel quale noi dimostriamo ogni giorno, prendendolo da tante prospettive, il modo con il quale ci vogliamo impegnare a far meglio. E far meglio non è soltanto il comportamento del campo, perché dalla formazione nei confronti dei tesserati alla loro responsabilizzazione, tutto è collegato e può portare magari a evitare che succeda qualche disastro come quelli successi quest'estate. Che non si pensi che tutto sia scollegato, perché tutto è collegato da un filo logico. Mi piacerebbe poterlo spiegare, mi piacerebbe soprattutto che chi ha la possibilità ogni giorno di raccontare al pubblico la realtà abbia questa chiave di interpretazione, se no rischiamo un'analisi superficiale che fa male a tutti. E intanto ha cominciato a spiegarlo qui, poi c'è quell'altra cosa che è sicuramente non simbolica ma importante di questo disegno di legge per la confisca dei beni di chi viene pescato con le mani nella marmellata a truccare partite. È una cosa che stava particolarmente a cuore al presidente Abodi, lo dico, ma non perché l'abbiamo ospite, ma perché è la sacrosanta verità storica di come nasce quel provvedimento. Se davvero diventerà legge, io credo sarà un passo avanti per la Serie B, la A, la Lega Pro, i dilettanti in generale, per tutto il mondo per dello tutto sport. Lo sport. C'è il traffico, vi devo fermare, saluto Andrea Abodi, grazie presidente. Ciao presidente. Grazie a voi, alla prossima. Grazie presidente Abodi. Tutti convocati. Tutti convocati. Possiamo chiamarla la grande sofferenza. Italia e Islanda, sta per finire il secondo quarto, quindi siamo quasi a metà partita. È lunga, Italia Giovanni, 39, non è facile. Islanda non è... 37, no, è tutt'altro che facile. anche ieri con la Germania, Islanda ci ha dato, insomma, quindi sarà noi una partita da vincere. È indispensabile vincerla. Tra l'altro Germania che oggi ha perso con la Serbia di 2 punti, se non sbaglio, nella seconda partita del girone. Poi stasera vedremo anche Turchia-Spagna. A proposito di Turchia, intervallo, gara di qualificazione europeo 2016, Turchia 2, Olanda 0. Olanda che in questo momento è quarta in classifica nel girone dell'Islanda, della Repubblica Ceca e della Turchia, che se finisse così la partita avrebbe 2 punti di vantaggio a 2 giornate dal termine. Ed è vero che c'è sempre tempo per tornare, però è anche vero che sarebbe una situazione particolare. Prima di chiedervi un pronostico su Italia-Bulgaria di questa sera, a proposito del Milan, perché oggi si è scritto, ci sono problemi sulla chiusura dell'affare che porterà un nuovo socio per Berlusconi, a quanto risulta Mister B non ha mai avuto in programma di venire al derby e quindi non c'è nessun cambio di programma sul fatto che lui domenica 13 molto probabilmente non sarà in tribuna a San Siro. La sua visita di questa settimana è una visita strettamente privata, tanto che dovrebbe arrivare in Italia senza il suo entourage, quello che tratta le questioni legate all'affare con il Milan, e non sarà probabilmente nemmeno a Milano, sarà in un'altra città italiana dove festeggerà il suo 40° compleanno. Per il closing ci si rivede entro il 30 settembre. due o tre giorni prima, insomma la data dell'arrivo di B dovrebbe essere questa, quello per quanto risulta ad oggi. Siamo al 6 settembre, poi vedremo. Mi fate il pronostico, Pierre e Carlo, su Italia-Bulgaria di questa sera? Beh, possiamo dire che vince, Pierre, Carlo, possiamo dire che vince l'Italia, no? 1-0, sì. 1-0. Una roba streminzita. Una roba streminzita, dai. 4-5 cose sparse che ero chiuso. Sul discorso del Milan, la deadline è il 30 settembre. Cioè, ad oggi è prematuro disegnare scenari foschi o complicati, però insomma, 30 settembre è una data importante. No, poi, se poi Pierre, non succedono delle, sì, cose a quel punto, ecco. Poi e... c'è Belinazzo che ha detto che tutto procede secondo copione, quindi secondo le tappe stabilite. Sono discorsi lunghi e non semplicissimi, quindi no, ma semplicemente per dire così, è una, no, data importante, secondo me. Guardate, come? Guardate, sinceramente il 30 settembre è una data importante. Sì, sì, ma semplicemente per dire che non c'è un cambio di programma, cioè in realtà si sono scritte queste settimane cose che non sono. E sulla B, B volevo... e poi salutiamo Pier Augusto Stagno. Sulla B, prego, posso dirti secondo me che loro sono stati sempre all'avanguardia in questi anni. È chiaro che è un campionato infinitamente meno importante dell'anno, me ne vorrà a Bodi, però sono riusciti a costruirsi degli ambiti di originalità dalle partite intorno a Natale che sono stati in grandissimo successo. A Bodi sicuramente ci ha messo del suo da questo punto di vista, e quindi secondo me il viaggio prosegue, anche se certamente la complicazione del calendario, dei ripescaggi, Ascoli Entella, quello che è successo l'anno scorso è stato un problema oggettivo, però insomma c'è molta creatività da parte di questa, sì, di questa, sì, presidenza, sì, vero. Ciao Piero. Ciao, domani. Delle 14 sempre da Cibus Italia, padiglione che si trova in Expo, Pier Augusto Staggi. Ciao Pier, da un Pier all'altro. Ciao ragazzi, all'altro. Buona Ciao. Serata. Come va? Dai, com'è andata la Vuelta, dove oggi c'era la seconda tappa di montagna del trittico che dovrebbe deciderla? L'abbiamo vista brutta. È stata una tappa molto, molto bella, ma anche molto difficile, complicata per Fabio Aru, che è resistito, ha mantenuto la maglia rossa per un solo secondo. La vittoria di tappa è andata a Joaquin Rodriguez, che adesso è secondo e veramente... Aru ha il fiato sul collo, però io sono, resto ottimista, maledettamente ottimista come Carlo e Pier su Italia-Bulgaria. Io sono ottimista per il 13 moderatamente, settembre per Madrid. Moderatamente. Abbiamo prospettato una vittoria di sofferenza. Sì, si fa professione. Una vittoria di sofferenza, io spero che sia una vittoria di sofferenza, e lo è, perché è già adesso una vittoria, comunque sta tenendo in maniera sofferente Fabio Aru. Domani c'è un tappone, 5.000 metri di dislivello, una tappa lunghissima, la più dura di questa Vuelta, che chiuderà il trittico di prima del giorno di riposo e prima della cronometro di mercoledì, e io credo che domani Fabio possa ristabilire un po' e rimettere a posto un pochino le cose. Oggi l'arrivo era chiaramente favorevole a Joaquin Rodriguez, il corridore catalano, che negli ultimi due chilometri ha fatto vedere, è partito a 900 metri sul punto più duro e ha fatto valere le sue doti di scattista e corridore avvezzo a questo tipo di arrivi. Fabio ha dovuto pagare un po' una manciata di secondi, ma domani invece ci occorrerà resistenza e forza, e credo che possa invece domani riportare a casa qualche secondo che può servire in chiave cronometro di mercoledì e soprattutto per concludere degnamente questa Vuelta, che Fabio in ogni caso sta correndo da grande protagonista. Pier, ma è questione di cosa quando tu ti giochi su un secondo, due secondi, un grande giro, gambe, testa, tattica, squadra, cioè qual è l'elemento che incide di più? No, l'elemento che a questo punto della stagione, che siamo ormai alla conclusione, bisogna fare i conti con le energie che si hanno. Joaquin Rodriguez, Nairo Quintana, tutti questi corridori arrivano dal Tour. Fabio ha sulle gambe un Giro d'Italia e anche per lui una stagione di spegnere. Quindi devi fare i conti con la benzina che hai. Quindi occorre soprattutto forza. Benzina che è fisica, però, e mentale, Pier. Esatto, però alla fine la differenza la farà la testa. Oggi ha dimostrato Joaquin Rodriguez, per quel tipo di arrivo, di avere più gambe. Però Fabio mi è piaciuto perché ha avuto tanta testa, ha faticato tantissimo, a vederlo ti veniva l'ansia, a me è venuta veramente molta, ero convinto che crollasse da un momento all'altro, invece ha tenuto invece molto bene. Quel secondino se l'è tenuto? Non ho capito. Psicologicamente, quel secondino se l'è tenuto psicologicamente può voler dire... Cavolo. Vuol dire tantissimo. Sì, si vincono le gare per un secondo. Vallo a dire al povero Laurent Fignon, al compianto Laurent Fignon. Ma no, ma poi negli ultimi anni, Pier, i giri siamo abituati a vederli decidere per un pugno di secondi. Cioè non sono più quei distacchi, normalmente quei distacchi abissali. Esatto. Si porta a casa tutto. Oggi abbiamo portato a casa la pellet, portiamo a casa la maglia che comunque ti dà forza, ti dà sicurezza, la squadra c'è, devo dire che oggi la stagione è stata eccezionale, come ad esempio per dire oggi mi ha molto deluso, è mancato, io tenevo invece un uomo in più, l'ingresso ieri mi aveva spaventato, Nairo Quintana, tant'è vero che probabilmente ci avevano creduto anche proprio un due, che è il suo direttore sportivo ha corso, non avevano fatto i calcoli con il nostro Fabio Aru. Ti devo fermare, Pier Augusto, c'è il GR, grazie Pier Augusto Staggi, abbiamo una settimana comunque per raccontare come finisce questa vuelta. Ciao Carlo, anche a te, tanto ciao, domani Giovanni, dopo il GR delle 14 da siamo di nuovo qui, ci teniamo anche il 41-37 dell'Italia, metà partita contro Islanda, europei di basket, ma andiamo avanti a raccontarla per tutta la serata. GR. Grazie ragazzi, grazie. Forza Ferrari, forza Monza, sempre. Forza Monza anche. Grazie.